Mix 24 estate di Giovanni Minoli. Da oggi facciamo un salto indietro nel tempo, negli anni 60, ve li raccontiamo attraverso la musica e naturalmente attraverso la storia. In questo viaggio nel decennio ci accompagnano Alessandra Fiori e Franco Schipani. E allora Franco, che anno è il 1960 per la musica? Beh, più che dirvelo, ve lo faccio ascoltare. Il tuo bacio è come un rock che ti morde col suo swing, è assai facile al knockout che ti butina sul ring, fa l'effetto di uno shock e perciò canto così. Oh oh oh oh oh oh, il tuo bacio è come un rock, i tuoi baci non sono semplici baci, uno solo. Buongiorno Franco Schipani. Buongiorno Alessandra Fiori. Caro Franco, allora partiamo con Celentano? Partiamo con Celentano, che è un rottamatore, il vero rottamatore, quello della musica. Una rottura con il passato con Celentano, perché in quel momento proprio l'Italia attraverso la musica vede tutti i suoi cambiamenti, quelli che stanno avvenendo appunto nella società in generale. Perché Franco, allora, il boom fa ballare, vivere, uscire. E infatti nel 1960 la SIAE aumenta i suoi introiti, sai di quanto? Te lo dico io? Non ne ho la più pallida idea. Del 150%. Wow. E ci sono oltre 15.000 jukebox in circolazione e vengono venduti quasi 17 milioni di dischi. Insomma, Franco, è un boom musicale anche. Sì, perché in quel momento la musica era il vero elemento catalizzatore della società, del cambiamento di questa nostra società italiana. E nasce l'industria discografica moderna, quella organizzata per vendere i dischi. Quella vera. Hai capito, Alessandra? Ho capito. E allora adesso mi racconti qual è la colonna sonora del 1960. Guarda Alessandra, di bei pezzi ce ne sono veramente tanti, ma il più venduto nel 1960 è questo. Questa stanza non ha pareti, ma alberi, alberi infiniti, quando tu sei vicino a me, questo soffitto mio. Franco, quando tu sei vicino a me, Franco. Che poi, scusami, ma questa era scritta Gino Paoli, giusto? Sì, gliela proposta a Mina, gliela proposta a Mogol, che era giovanissimo. E Gino Paoli, pensa, all'epoca era veramente sconosciuto, tanto sconosciuto che non era iscritto neanche alla famosa SIAE della quale parlai prima. Era proprio nessuno. Ecco, è stato scritto questo pezzo, è stato proposto prima a Iola De Palma e a Miranda Martino, che erano due cantanti super, super famose. Loro dissero no, grazie. Mina l'ascoltò, disse, ma non lo si può so, fare. Si può fare, non forse. Sono tanto convinta. Invece un discografico illuminato tanto per cambiare disse guarda, la devi cantare, insomma gliela imposero, lei la registrò e diventò un grande successo, la portò talmente all'attenzione del pubblico che nel 1960 Mina finalmente partecipa al Festival di Sanremo con una bellissima canzone che si intitola È vero. Io ve la faccio ascoltare però nella versione di un altro grande interprete. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. È vero, amore, è vero, esistono gli angeli. È vero, amore, è vero, io credo ai miracoli. Ognuno mi stende la mano, ognuno mi offre una rosa. Le strade, la folla, ogni cosa è bella con te. Franco, scusami, ma è vero che per partecipare al Festival di Sanremo bisognava già essere famosi? Beh, diciamo che se partecipavi al Festival di Sanremo, qualcosa di giusto nella tua vita, nella tua carriera, l'avevi fatta. Comunque... Però, mio caro Franco, sì. Anche se arrivavi qui ce l'avevi fatta. Senti. Roma, 25 agosto 1960. La lancetta dell'orologio nazionale segna finalmente l'ora delle Olimpiadi. il fuoco sacro che ha bruciato tutta la notte nel tripode innalzato sul Campidoglio giunge allo stadio dove 100.000 persone attendono la proclamazione dei giochi. Perché a Roma è proprio l'ora delle Olimpiadi del 1960 con due indimenticabili ori. Il primo di Nino Benvenuti, che diventa una leggenda del pugilato. Non v'è incertezza per quanto riguarda il successo del triestino Giovanni Benvenuti, il welter che riesce a dimostrare come il pugilato sia effettivamente una nobile arte. Alla seconda ripresa manda al tappeto Yuri Radoniak, un montanaro del Caucaso, ma non è che un aspetto più concreto della sua accademia. La conquista del titolo olimpionico non è per il triestino che è una formalità. E il secondo oro franco alle Olimpiadi del 1960 è quello di Livio Berruti, che vince i 200 metri, un pezzo di storia dell'atletica leggera italiana. Sono partiti, avvio bellissimo di Berruti e urlo unico del pubblico. Berruti attacca in testa gli ultimi 60 metri, poi avanza al largo. Berruti avanza irresistibile verso la vittoria, a 10 metri, a 5, ha vinto Berruti, secondo Carney. Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro. Possiedi personalità, una personalità dolce, personalità guardi, personalità ridi, personalità baci, personalità. Per questo hai rubato il cuore, è vero, è vero. Caterina Valente con Personalità, mi sembra un brano azzeccato. Che dice Alessandra? Ho molto apprezzato, perché in effetti Berruti e Benvenuti avevano una certa personalità. Ma un altro campione, timido ma determinatissimo, muore pochi giorni dopo. Lui, il campionissimo Fausto Coppi. Milioni di sportivi lungo le strade di tutto il mondo hanno scandito il suo nome. Un nome che sulle ali di 100 vittorie si è tinto di leggenda. Per 14 anni primatista mondiale dell'ora. 2 giri di Francia, 5 giri d'Italia, 3 campionati mondiali, 9 campionati italiani. Un male misterioso l'ha stroncato quando ancora sentiva in sé sufficienti forze per continuare a correre. Ora va verso l'ultimo traguardo. Fausto ci ha lasciato. Ma sull'Isoar, sul Galibier, sul Pordoi, su tutte le strade che lo videro passare da dominatore, resta l'eco del suo mito. Franco, il 2 gennaio 1960 se ne va Fausto Coppi, il campionissimo. E per un mito che scompare, cara Alessandra, un mito che nasce è Gino Paoli. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, da una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. La chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola. Il tormentone dell'estate del 1960, Rocco Granata con Marina. E prima era la gatta di Gino Paoli. E intanto, Franco, nel 1960 l'Italia continua a crescere, ma non poco. Siamo quasi all'8%, che se tu pensi che nel 2015 abbiamo festeggiato una crescita dello 0,8, insomma, ti rendi conto della distanza siderale dal periodo. Nel 60, intanto, l'Italia in piena crescita festeggia anche un altro importante primato economico. La lira vince l'Oscar per la moneta più stabile. E un grande industriale italiano, Adriano Olivetti, debutta in borsa con la sua azienda, ma morirà improvvisamente 2 giorni dopo, il 27 febbraio. Comunque intanto gli italiani sono 50 milioni, iniziano a spendere sempre di più e comprano la loro prima macchina. Ma oltre la macchina, l'altro oggetto del desiderio degli italiani è il televisore, e pensa che ne vengono venduti 500.000 in un anno. E Franco, adesso, guardami. Loro, gli italiani, 500.000 televisori, che cosa vedono? Che cosa vedono? Ma il Festival di Sanremo innanzitutto, che cosa vuoi vedere? Ecco, quella del 1960 è un'edizione anche che comincia a lanciare dei giovani. È mezzanotte, diamoci un bacio e ritorniamo passo passo verso casa. Io t'accompagno, tu m'accompagni, mentre le stelle ci stanno a guardare senza parlare. È mezzanotte, quasi per tutti, ma il nostro cielo è chiaro come a mezzogiorno. Anima mia, stammi vicino, vicino così, dimmi di sì. Mi sognerai, ti sognerò, dopo di te nessuno al mondo io bacerò. Ti voglio bene, sei la mia vita, l'unico amore, ti giuro, ti giuro, ti giuro sei tu. È mezzanotte, anzi lo era, tra un bacio e l'altro ormai rintoccano le due. Ma non importa, io sono felice, voglio restare abbracciato con te fino alle tre. La la la la la la la la la la la la la la. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Mix 24 estate. È mezzanotte, diamoci un bacio e ritorniamo passo passo verso casa. Io t'accompagno, tu m'accompagni. Gio Sentieri con È mezzanotte. Tu lo ricordi, Gio Sentieri? Franco, ho fatto una domanda difficile. Hai fatto una domanda troppo difficile. Comunque, intanto, bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Io sono Alessandra Fiori. Qui con me c'è Franco Schipani. No, che non me lo ricordo, Gio Sentieri. Ma è ricordamelo. Il cantante col saltino. Dunque, Gio Sentieri è uno che ha fatto il conservatorio, uno che ha studiato. E poi a un certo punto, per mantenersi, giustamente, come facevano moltissimi, andava a suonare nelle navi da crociera. Ecco, ma lo giorno, sai che anche altre persone l'hanno fatto, hanno avuto poi un certo successo. Ma tantissime persone, è una specie di gavetta acquatica, la possiamo chiamare così. Univano l'utile al dilettevole, le vacanze con la gavetta. Però io c'è una cosa che non ho capito a questo punto. Uno sconosciuto arriva al festival, quindi non solo big. No, lui non era perfettamente sconosciuto, perché lui ha cantato, pensa, la sigla proprio delle Olimpiadi in inglese, l'hanno data a Gio Sentieri, quindi era già conosciuto, cioè un bello spot promozionale per Sentieri, no? Comunque lui lo chiamavano il cantante con il saltino. Perché? Perché un giorno, durante una di queste crociere, lui era al microfono, la barca, chiamiamola barca, ha fatto una specie di rullaggio a destra e a sinistra, allora lui, per non cadere, ha fatto un saltino per rimanere in equilibrio. Alla gente piacque moltissimo, si divertì, allora lui ha preso l'abitudine, poi ogni sua, diciamo, dove andava a cantare, finiva sempre col saltino. Infatti lo chiamavano Gio Saltino, ecco, non male, esattamente. Gio Saltino. Comunque, il festival è cominciato appunto nel 1951, ma è cominciato come una festa di paese, nel senso che non era così organizzato come poteva diventare negli anni 60-70 e in seguito anche negli anni a venire. C'erano Carla Boni, Nilla Pizzi, Claudio Villa, presentava Nunzio Filogamo. Ecco, la rivoluzione del festival è cominciata negli anni 50, alla fine degli anni 50, con Domenico Modugno, che ha completamente rotto gli schemi. Perché? Quindi, come? Come? Perché aveva un atteggiamento un po' che non era quello classico del cantante classico, cioè lui aveva delle idee, si comportava in modo sempre non convenzionale. Fa spettacolo. Faceva spettacolo, è stato uno dei primi che faceva veramente spettacolo, non soltanto con le canzoni, ma nel modo in cui interagiva col pubblico, sia a casa che in quel momento anche in televisione. Ecco, il festival è diventato anche un mezzo promozionale incredibile per tutti questi artisti, perché c'era un solo canale, c'era un solo festival, e quindi questi cantanti te li dovevi vedere. Comunque, c'erano anche degli altri cantanti, che poi sono diventati famosi, dei veri e propri fenomeni di costume. Accanto a te splende il sole, accanto a te c'è l'amore, che mille favole nel mondo han già narrato, e nei miei sogni ho immaginato di incontrar accanto a te splende. Fausto Cigliano con Splende il Sole, artista nuovo che poi ha avuto grande successo in tutto il mondo, perché queste nostre canzoni, cara Alessandra, queste melodie meravigliose con queste orchestre fantastiche dietro, poi facevano il giro del mondo e ci copiavano all'epoca. Non eravamo noi a copiare loro, gli americani, gli inglesi, i tedeschi, i francesi, ma erano loro a copiare noi, capito? Ho capito, però io ti voglio dire che in questo 1960 non c'è solo il festival a cambiare, perché nel 1960 la RAI lancia programmi che diventeranno storici e ti faccio ascoltare il primo. Franco? L'hai riconosciuta? Ma per noi ammalati di calcio, questa sigla è nel nostro DNA, cara Alessandra. Tutto il calcio minuto per minuto, condotto da Nicolò Carosio ed Enrico Ameri. Intanto, il 6 e il 7 novembre del 1960 votano 32.533.044 italiani. La DC è al 40,3%, il PCI al 24,5%, il PSI al 14% e l'MSI al 5,9%. E voluto da Fanfani, nasce un altro programma che diventerà storico ed è Tribuna Politica. A raccontarlo Ettore Bernabei, allora direttore generale della RAI. Fanfani, presidente del Consiglio, chiese alla RAI di organizzare una tribuna politica televisiva. La tribuna elettorale della RAI TV ha portato la politica nelle case. Per la prima volta in un paese di democrazia occidentale, una televisione nazionale metteva i suoi mezzi di comunicazione a disposizione sia della maggioranza di governo che delle opposizioni. Tutti sullo stesso piano, tutti. Nemmeno la BBC faceva questo. Ecco, 1960, Tribuna Politica è il primo programma in cui i politici, appunto, mostrano le loro facce in TV ed entrano così nelle case degli italiani. Ma come si entrava, Franco? Si entrava uno alla volta e si parlava uno alla volta, proprio come succede oggi. Hai presente? Ah, è uguale, è identico. Sì. È uguale. Un altro programma storico. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Il Ministero della Pubblica Istruzione e la RAI Radio Televisione Italiana presentano Non è mai troppo tardi. Corso di istruzione popolare per adulti analfabeti. Cari amici, buonasera. Eccoci nuovamente insieme per imparare a leggere e a scrivere. Io direi però di più, per imparare a conoscere meglio il mondo e noi stessi. Signorina, adesso me li presenti, ci faccia sapere il nome di ognuno. Sì. La nonnetta qui è... Barboni Agata, ha 82 anni, e è mia nonna questa. 82 anni? Sì. E la signora? Virginia Sgamma. Quanti anni? Franco, il mitico maestro Manzi che insegnava a leggere e scrivere dallo schermo di casa. Lo sai cosa mi viene in mente? No, dimmi Alessandra. La pazza idea è come se oggi la RAI avesse la strana, assurda idea di creare un programma di alfabetizzazione digitale. Ci pensi che strano che sarebbe? Ma mica tanto strano, forse ritorneremo a fare servizio pubblico, che forse. Dice? Ah, come amore B, come bacio C, come cuore innamorato, questo è l'alfabeto dell'amore, prova ad impararlo anche tu. Dopo il maestro Manzi, scusa, mi sono fatto prendere dall'alfabeto A, B, C e quindi ho messo Flo Sanders, che comunque è andata molto forte nel 1960 con questa canzone A come amore. Ecco Alessandra, da un punto di vista organizzativo, prima parlavamo del festival che diventa moderno, diventa un tramite, un traino per vendere dischi e anche naturalmente televisori. Ecco perché? Perché è stato affidato il festival a un manager di professione finalmente, che si chiama Ezio Radaelli, che poi l'ha fatto per tanti anni. I presentatori sono dei volti notissimi, Enza Sampoi e Paolo Ferrari, che abbiamo già visto in televisione, in teatro, insomma erano amatissimi in quel momento in Italia. E pensa un po' la giuria, prendono come presidente della giuria Totò. Ma dai, sì. Totò. E come c'è finito Totò? Lui innanzitutto è un poeta, oltre che attore. Sì. Ha scritto delle canzoni indimenticabili e quindi lo hanno preso come... come fiore all'occhiello, anche perché Totò negli anni 60 era quello che con i suoi film faceva incassare un po' più di tutti, cioè manteneva in vita l'industria cinematografica italiana. L'industria musicale italiana, chi lo vince Sanremo quell'anno? Quell'anno lo vince Toni Dallara. Tu sei romantica, amarti un po' di vivere nella semplicità. Un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Mix 24 estate. Tu sei romantica, amarti un po' di vivere nella semplicità, nella realtà di un'altra età. Toni Dallara con Romantica, Alessandra. Franco, io sono romantica. Davvero? Sì, caro, in questo 1960 bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Io sono la romantica Alessandra Fiori. E io sono il romanticone Franco Schipani. Allora Franco, chi è Toni Dallara? Anzi, parlami degli urlatori, dai. Ma guarda, Toni Dallara, senti questa voce? La sento. È un urlatore, cioè, pensa agli altri. Comunque, cantava insieme a Renato Rascel, che era un po' più, diciamo, un po' più melodico. Ecco, gli urlatori chi sono? Sono urlano. Cioè, il termine è facile. Che cosa volevano urlatori? Strilloni. Cantare in un modo completamente diverso. Tra questi c'era, lui. Celentano, impazzivo per te, un urlatore, Alessandra. Però non urla tanto, Franco, dai. Ma per l'epoca sì. Sì? Ma sì, questo era proprio un urlatore di primissima categoria. Comunque il termine urlatore, forse tu non lo sai, forse sto dicendo. No, sicuramente non sicuramente lo so. Sicuramente non lo sai. Viene appunto da shouter, che vuol dire urlatore, viene dall'America ovviamente. E raccoglie un po' quella che era la tradizione tra il boogie boogie e quella durezza ritmica del blues di matrice nera. Get out of that bed, wash your face and hands. Get out of that bed, wash your face and hands. Well, you get in that kitchen, make some noise with the pots and pans. Well, you Joe Turner, Shake, Rattle and Roll. Questo è un urlatore, Alessandra, capito? Quindi iniziamo a ballare e a urlare soprattutto. A urlare, anche perché in quel momento, come dicevamo prima, ci sono tanti jukebox in giro in Italia, 15.000, un numero spropositato. Io mi chiedo da dove arrivano tutti questi jukebox, come fanno a trasportarli, perché i jukebox, dico, ragazzi, sono grandi, sono mica dei giradischi. Però che bello. Quanto ti piacerebbe averlo a casa? Sai quelli. Guarda che c'è moltissima gente che c'è. Certo, da certo. Renzo Arbor in giù o in su, non lo so. Belli. Ma comunque, tanti li collezionano, anche sulle spiagge. A me, se lo vuoi regalare a Natale, io voglio quello classico col bordo. Il Whirlies. Sì. È un po' costosino, sai. Vuoi quello o un Maserati? Perché, insomma, il prezzo credo che. Macchine no, preferisco il jukebox. Senti, ma dimmi cosa urlavano questi shouter. Urlavano un po' di tutto, bastava urlare, non è che i testi proprio fossero da premio strega, tanto per intenderci, capito? Insomma, urlavano, era più che altro un modo di liberarsi, un modo di ballare. Perché tu mi dici che Celentano era il più famoso, il primo e più famoso? Perché oltre ad urlare, lui aveva un atteggiamento completamente trasgressivo, cioè si era inventato una moda, per esempio i pantaloni a doppio colore con le tasche alla carrettiera. Era uno che quando andava sul palco dava le spalle al pubblico, era uno che prendeva il microfono in un certo modo, era uno, insomma, completamente fuori dagli schemi. E questo era un modo di liberare. Di liberarsi quindi dalle tensioni sociali, dalle tensioni sessuali, chiamalo come vuoi, però si urlava, ed in questo eravamo finalmente aiutati da questa benedetta elettronica, perché insomma cantare queste cose un po' pianino con dei piccoli amplificatori forse non avrebbe funzionato. Scusami Franco, ma tu mi vuoi dire che Celentano inizia a urlare nel 1960? Non credo proprio, perché Adriano urlava già prima. Sono ribelle, non mi piace questo mondo che non vuol la fantasia. Io sono ribelle nel vestire, nel pensare, nell'amar la bimba mia. Ma con un po' di felicità, ballando rock. Io sono ribelle, non mi curo del denaro, vivo come un gran signore. Cioè, ma hai capito che canta Adriano Celentano nel ribelle? No. Cioè, hai sentito il testo? A me non me ne importa niente di questo, di quell'altro, dei vostri valori. Faccio quello che voglio, mi vesto come mi pare, capito? Insomma, si sentiva abbastanza libero. Non so se hai recepito il messaggio. Forse ed era, ecco, molto libero. Sì, sì, perché è anche tu che in quel momento, sai, era il nostro Elvis Presley, dai, forse, diciamo. Ecco, ma spiegami una cosa, Celentano copia Elvis? O lo studia? Diciamo che lo studiano. Ma io direi che lo fotocopia proprio. Cioè, almeno all'inizio, qualcuno doveva far riferimento. E chi meglio di Elvis, che in quel momento esprimeva anche lui un certo tipo, una certa tipo di ribellione al suo tipo di società. Comunque, a Sanremo, come ho detto, lui si presenta, si piazza come vuole sul palco, insomma, fa esattamente quello che vuole, il massimo della sfacciataggine. Fermo, perché a proposito di sfacciataggine, mentre Fernando Tambroni forma un governo monocolore democristiano con l'appoggio decisivo del Movimento Sociale Italiano, i Missini, presi dall'entusiasmo, organizzano un congresso a Genova, città rossa per eccellenza. Immagina, Franco, le proteste che si diffondono in tutta quanta Italia. Il 30 giugno 1960, 100.000 genovesi scendono in piazza per una manifestazione di protesta. Il malcontento era generale. La Costituzione non veniva applicata secondo i principi che conteneva, di libertà e di democrazia. Noi, quando facevamo delle iniziative sindacali, ad esempio scioperi, erano legnate a botte da orbi, capisci? Botte da orbi, Franco, in questo 1960. Mazzate, mazzate. Eh sì. E in questo 1960 il Papa è Giovanni XXIII, il Papa buono. Ma non sono tutti buoni. Siamo già nella guerra fredda e proprio in quell'anno il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi fa un viaggio in Unione Sovietica. A organizzare il viaggio è un certo Enrico Mattei. Lui è in Unione Sovietica con un obiettivo preciso: scavalcare le famose sette sorelle, le compagnie petrolifere americane, per l'approvvigionamento del petrolio. Mattei riesce nell'impresa tornando a casa con un accordo importante di cui va molto fiero. Ascoltiamolo. Io l'anno scorso fui chiamato a incontrarmi con uno dei sette grandi, uno dei più grandi. Hanno un bilancio che è quasi pari al bilancio dello Stato italiano, di queste compagnie, a Monte Carlo, dove mi chiamò. Tutta la collaborazione riguardava l'Italia, tenere su più i prezzi, guadagniamo tutti di più. È proprio il contrario di quello che devo fare io, che sono l'esponente dell'azienda dello Stato. Io devo cercare di portare al consumatore tutto quello che è possibile. E io gli dissi, ma in Italia, dico, sa, io credo che avete finito di fare una politica vostra, che da adesso in avanti la faremo noi. Mi disse, che cosa vuol fare in Tunisia? Ma dico, in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice, voi non farete la raffineria, dice, perché la faremo noi. Noi con una delle altre grandi società del cartello insieme, di un'altra delle sette sorelle. E gli dissi, molto umilmente gli chiesi, cosa ne pensa se invece di farli in due, se si facesse in tre? Dice, no. E allora io a questo momento tirai fuori dalla tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere. Lo guardai, li cancellai e gli dissi, ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci. Però dico, lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita. Ecco, Enrico Mattei, un vero visionario. Ma nel 1960 è un anno strepitoso anche per il cinema italiano, perché escono capolavori come Rocco e i suoi fratelli di Visconti, La Ciociara di De Sica con una strepitosa Sophia Loren, che per questa interpretazione vincerà due anni dopo l'Oscar, ma soprattutto che cosa esce, Franco? Senti. La dolce vita di Fellini con la colonna sonora di Nino Rota, un film considerato scandaloso dalla Chiesa Cattolica. Il ministro dello spettacolo Umberto Tupini lo definisce un film con soggetti scandalosi e morbosi ritenuti deleteri per la formazione della coscienza civile degli italiani, Franco. Sì, Silvia, vengo anch'io. Te lo ricordi, Franco? Come here, Franco! Ogni volta che passo davanti alla Fontana di Trevi vedo Hackberg dentro che fa il bagno. E tu entravi? Assolutamente no. E comunque La dolce vita, scandalosissimo, si porta a casa la Palma d'Oro a Cannes. Ecco, Alessandra, io penso che sia la prima volta in cui la Chiesa fa la pubblicità a un film, perché loro dicevano, mi raccomando, non andate a vederlo, perché questo film è scandaloso, perché ma c'erano le file intorno ai palazzi di gente col biglietto in mano, perché detto, questo non si può vedere, era proprio il proibito che si deve andare a vedere. Comunque, un successo, mia cara, in tutto il mondo. Ecco, Franco, in tutto il mondo succedono anche un sacco di cose. John Fitzgerald Kennedy, a soli 43 anni, diventa il 35esimo presidente degli Stati Uniti. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. E proprio quell'anno, il 1960, Cuba rompe con gli americani e sigla degli accordi con l'Unione Sovietica. Il 1960 è stato anche definito l'anno dell'Africa perché 17 ex colonie diventano indipendenti. Io invece voglio portarti nel mondo del gossip, dato che hai nominato l'Africa, perché un africano, di origine africano, Sammy Davis Jr., che faceva fra l'altro parte di questo Rat Pack di Frank Sinatra, quindi era Rat Pack era la band di Frank Sinatra, il suo club privato, diciamo così, dove c'erano cantanti, attori, nei 4-5 in quel momento in America dettavano legge nello spettacolo. Ecco, lui di colore si permette il lusso di sposare una bianca, una svedese, tale May Britt, mentre in America in 31 stati, dico 31, i matrimoni misti, quelli misti, erano proprio fuori legge, non si poteva fare. 1960, dice, allora i Beatles per la prima volta firmano un contratto con questo nome. I Beatles firmano il loro primo contratto. E che cosa suonano? Io sono sicuro che tu conosci tantissime canzoni dei Beatles, abbastanza. Però secondo me questa, cara Alessandra, non la conosci. Hello, little girl. E invece io la conosco. La conosci? Sì, caro. Ma la canti alla tua bambina? No. Però perché hai ragione. Me la puoi cantare. Questa è perfetta. Ciao piccola. Hello little girl. Hai ragione. Sono troppo stonata, Franco, c'è questo particolare. Vabbè, fatti aiutare da qualcuno. Hai ragione. Siamo vieni un karaoke, vieni un karaoke quando serve, dai, quando ci vuole. Comunque, Vogliamo parlare di Elvis Presley a questo punto o no? Perché il 1960, ecco, lui nel 1960 finisce il servizio militare, perché nonostante lui sia il re del rock and roll, il militare 18 mesi in Germania se li è fatti. Ah. E lì ha ascoltato una canzone, l'ascolta, quando torna in America dice: devo recuperare un po' del pubblico che non gli piace il rock and roll, quindi faccio una cosa melodica. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Franco, ma lo sai che ha ragione? In effetti mi ricorda qualcosa. Beh, it's now or never. O sole mio. O mi sole sembra che mio. Sia un... cioè, capisci? Questo ha sentito un pezzo napoletano, l'ha fatto in inglese, è ritornato al numero uno delle classifiche mondiali. Cioè, ha detto genio. Cambio genere e non perdo il posto. Ma sì, perché quando è andato via c'erano le bambine che si strappavano i capelli ascoltando il rock and roll. Ritorna con questo brano melodico, recupera anche un pubblico che non aveva prima, che sono le mamme, le nonne di quelli che l'ascoltavano prima. Ripeto, un genio, assolutamente un genio. Però ti voglio far ascoltare un'altra cosa, senti. No arms will ever hold you like these arms of mine. No heart will ever love you. Allora, questo è Pat Boone con No Other Arms. Del 1955, quindi è già uscito da 5 anni e non se lo rifilava nessuno. E lo ripropone? No, perché no. Invece questo brano se lo ha filato alla grande un altro personaggio. Senti. Mai più nessuno al mondo amerà così, perché nessuno al mondo ha vendicato sole mio. Cioè, capito? Sì, ha vendicato il sole mio. Ha detto: tu fai una canzone nostra, caro Elvis, e io vi faccio una canzone di Pat Boone e sono napoletano. Bravo Peppino. Bravissimo Peppino. Ecco, ha avuto un successo, è ritornato. Dopo 5 anni nessuno se lo aspettava, è tornato in classifica in tutto il mondo. Cioè, l'ha recuperato un brano veramente pazzesco. Ma quindi siamo in questo mondo di confluenze, di contaminazioni tra continenti, uno copia qui, l'altro ricopia di là, un po' qua, un po' te, C'è un processo osmotico, si potrebbe definire. Perché? Perché gli americani, quando sono arrivati qui, insieme alla Coca-Cola, le sigarette, il cioccolato, eccetera, mm-hmm. sono portati un sacco di 45 giri, ma tanti 45 giri, che poi gli altri hanno cominciato ad ascoltare, si sono lasciati eventualmente anche influenzare e sono arrivate in Italia nel repertorio di tanti nostri artisti, tra i quali lui. T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato? Hai taciuto, ho pensato. Beh, questo è Fred Buscaglione, Eri piccola. Non mi dire che non conosci questo brano, Alessandra. Eri piccola, sì, eri piccola, piccola, sì. Poi lui parla, quindi la posso fare. Lui parla. Questo sì, quindi questo non ti serve sì, il karaoke. Sì, questo ce la faccio. Comunque, diciamo che in quel momento non erano soltanto gli anglosassoni e gli americani che influenzavano, diciamo, in parte anche la musica italiana. Siccome l'Italia è un ponte sul Mediterraneo, siamo stati anche influenzati da altri generi musicali. Stanotte quanti baci amore, uno a te, due a me, finché l'alba non verrà. Stanotte quanti abbracci ancora, uno a te, due a me, sembra un sogno ma è realtà. Nel cielo quante stelle d'oro, uno a te, due a me, finché l'alba non verrà. La luna incendia i nostri cuori, mezza a te, mezza a me, sembra un sogno ma è realtà. Sa de pomodoro, sa Mustafa, ya Mustafa, ben In ordine d'apparizione, Dalida, uno a te, uno a me, Mustafa con Steiffi, Michelino, cia cia cia, della segretaria, e poi la grandissima Edith Piaf con Milord. Insomma, un momento un po' schizofrenico e senz'altro con molte contraddizioni. Eh beh, sì, sì, Franco, perché in questo momento, siamo nel 1960, l'Italia è un paese, il boom economico, quindi un paese ricco, ma è anche pieno, pieno di contraddizioni. Pensa che in Italia si emigra ancora moltissimo, sia verso il nord. Pensa, nella sola Torino nel 1960 emigrano 64.745 meridionali. Che vuol ecco dire? Perché hanno fatto lo stadio nuovo. Adesso capisco. A Torino hanno fatto lo stadio per gli emigranti. 64.000 e hanno trovato la scusa. Ecco, che dopo sono diventati tutti tifosi juventini, quelli del sud. Lo sanno tutti, Alessandra. E comunque, oltre che verso il nord Italia, si emigra anche verso la Germania e la Svizzera. Ma l'Italia è anche il paese dove ci si sposta sempre di più per andare in vacanza. E in questo 1960 la 500 Giardiniera, che è appena uscita, è il mezzo più usato dalle famiglie per raggiungere i luoghi di mare. E proprio adesso le automobili in circolazione sono passate da poche centinaia di migliaia a diversi milioni. Pensa che l'autostrada del Sole è completa fino a Bologna e proprio a quel punto nasce un'area di servizio che è diventata famosissima, la celebre, tu lo sai, Cantagallo. È lei, è lei, Cantagallo, è lei, la mitica Cantagallo. Siamo nel 60, sì. Comunque, Alessandra, questo grandissimo desiderio di libertà, vedi, la gente vuole, non vuole soltanto spostarsi per andare a lavorare, si sposta anche per andare in vacanza, vogliono divertirsi, vogliono cantare, vogliono ballare, insomma, vogliono anche sfruttare il tempo libero, vogliono fare qualcosa di diverso. Quindi questo cambiamento nella nella società si riflette anche nella musica. Anche i testi delle canzoni cominciano a essere un po' più, come dire, superficiali? Leggeri, Franco. Leggeri. Ecco qualche esempio. Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole. Tintarella di luna, tintarella di luna. Mina, una zebra può sempre Mina e poi libero Domenico Modugno. Sai che questa canzone ha trovato grande difficoltà con la censura, perché lui diceva una rondine che non vuole tornare al nido, quindi diceva quindi un uomo che non vuole tornare in famiglia, che vuole abbandonare, cioè subito, capito? Pensa che lui ha proposto al festival, voleva cantare questa canzone vestita da carcerato con le stelle. Poi lo confondevano con la zebra, non si può fare, non si può fare assolutamente. Beh. Allora, tu mi vuoi parlare della rivoluzione culturale, sociale, ma non è ancora cominciata, si avvicina e noi vi racconteremo come, sempre su Mix 24, musica e storia, domani con il 1961. Intanto con cosa salutiamo, Franco? Beh, salutiamo con un brano dell'epoca, però modernamente riarrangiato. Non ci prendiamo la responsabilità di questo brano perché, come al solito, chi l'ha scelto? Antonella Migliaccio, mi raccomando. L'ha scelto sempre lei. Insieme a Gloria Guerrera. Esatto. Quindi loro si assumono la responsabilità di questo brano. Però sono andate sul sicuro, Franco. Volare, Gianna Nannini. Ciao. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo la faccia e le mani di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Dolce suonava soltanto per me. Thank you.